Radio Popolare vi ha presentato La Caccia, Caccia l'ideologico quotidiano, una trasmissione a cura di Felice Accame e Carlo Oliva. Buongiorno a tutti e grazie per la cortese attenzione. Grazie all'anonima regia, una regia che vuol rimanere anonima ma di cui i più esperti avranno già capito i segni indicatori, per la scelta musicale sicuramente. Grazie a tutti. L'appuntamento rimane confermato alla medesima ora di domenica prossima. La replica, mi dicono che sia dopo il notiziario della notte, il lunedì, 1:15 circa. Buona giornata a tutti.